Dialogo decimo. Raccontò Ben Omar. L'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: «In verità questi cuori si arrugginiscono come si arrugginisce il ferro nell'acqua». Allora gli chiesero: «C'è rimedio, o apostolo di Allah?» Rispose: «Sì, il ricordo della morte e la recitazione del Corano».